testa era stata solo per dire che erano solo infami. Yo, cosa fa male stomato, ma prendi bene sto mondo e manda fanculo e finti le gami. Yo, pare per dimmi com'è, sì dimmi com'è, poi dimmi com'è. Tu puoi avere una Ferrari, ehi. Voglio odio restare sul solo, per me restare sul solo vuol dire solo essere più umani, ehi. Odio restare sì con le mie mani in mano, perché ho tante voci in testa che mi richiamano, ehi. Ho quell'amico che quando sta preso male non ci sta bene, pure se poi mi incavolo, ehi. E come se faccio una corsa ostacolo contro le male lingue, bro, contro chi fa da trampolo. Lascio la scuola, non sto più finto per gli altri, sono tornato, mo. Non te ne frega proprio un cazzo delle tue idee, t'è fallito. Non me ne frega proprio un cazzo, se non ci sta nessuno sto solo. Solo, solo, solo, solo. Solo, solo, solo, solo, solo. A volte mande refanculo tutti. Fuck you all. Fuck you bro. Oh my god, fanculo. Sto loco come bro. Quelli veri giro distratto. A me no ha. Alleluia che non sto sull'asfalto. Non chiedo mai che mi trova la mia anima si spenta. Ma vado via. Dite bro, dammi guardi dal cazzo. Run from the club, non si campa che drop. Sta con la bomba nei box. Con un grammo sulla gamba, con nell'altra euro. Tu vorresti l'iPhone, tu vorresti le phone. Ma sei un rapper starter pack e pure pacco. Pure falso, non solo pure scarso. Non solo pure matto, non solo pure ladro. Ma tira, chiudo in cancro, ma tira, chiudo in cazzo. Tira, chiudo e babbro. Non te ne frega proprio un cazzo delle tue idee, t'è fallito. Non me ne frega proprio un cazzo. Se non ci sta nessuno, sto solo. Solo, solo, solo. Solo, solo, solo, solo, solo. Solo, solo, solo. Solo, solo. Se non ci sta nessuno, sto solo.